Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sì, per raccontarsi, per raccontare, questa sera in diretta negli studi di Resto Radio Convento, io sono Mr. Dave, sto sostituendo Master Nick, che è lui il titolare, e questo dicevo, sabato sera ho qua insieme a me tre bellissime ragazze che arrivano da niente po' di meno che Riva del Garda. Da Riva del Garda, quindi stiamo giocando sull'Alto Lago. La prima, che si chiama tutta sberluccicante, vi dovete immaginare alta, bella, sberluccicante. Grazie, io sono Alessia. Alessia, vicino al microfono e ci racconti un attimino che sei qua con altre due amiche che si chiamano Stefania e Vittoria. Stefania e Vittoria. Quindi Alessia, Stefania e Vittoria sono al ristorante Convento di Lonato per festeggiare il mio compleanno. Per festeggiare il tuo compleanno. Non diciamo quanti anni compi, quindi 18? No, possiamo dirlo, dai. Quindi? 22. Ah, 22. 22. L'età delle occhine. Sì, perché se tu fai il 2 e il 2 non sembrano due occhine. Ah, sembrano occhine. Quando me lo dicevano a me che avevo 22 anni, anni luce fa, ci rimanevo sempre male. No, ma come le occhine? No, scusa, cioè, 22 mi anni. Mi dormi mentre qualcos'altro, però. Cioè, cosa dici? 2-2, così. Ah. Quindi? No, non si può dire. Colpo di scena, no, ragazzi. Non voglio dirlo. Cosa c'ha nella sua testa? Cosa no, c'ha no, no. Io posso immaginare, ma meglio se lo tiene. Questa stava parlando Stefania adesso. Sì, che forse è la coscienza, la voce. La coscienza di Alessia. La coscienza di Alessia. Esatto. Allora, parliamo con la coscienza di Alessia. Raccontaci un attimino, Alessia, com'è? No. Meglio. La coscienza, meglio se non parla. Dai, dici com'è Alessia. Beh, Alessia. Vittoria, aiutaci, com'è Alessia. Vittoria. Allora, è una vittoria? Ma. È una vittoria, dai. Piano, sì. Wow, belle amiche. No, Alessia è una bella persona. Molto. Vicino al microfono perché non sentiamo. E poi perché la tua voce è molto calda e sensuale. No, dicevo che Alessia è una. Infatti, l'audience persona. Sta aumentando, eh. L'indice di. Vedi l'indice come sta aumentando. Sale. No, dicevo che Alessia è una bellissima persona e siamo molto felici di essere qui al convento a festeggiare il suo compleanno. Una bella idea, ho organizzato lei, quindi grazie. Ah, sei stata tu, Alessia, hai organizzato tutto. Ho organizzato io, sì. Bello. Vicino al microfono, ragazzi, che non vi sento. Okay. Quindi, e quando è che hai organizzato? Così, beh, per tempo. È stato un po'. Stasera parto. alle 6. No? No, questo compleanno diciamo che è stato veramente duro organizzarlo, però ce l'abbiamo fatta. Bene. E noi siamo contenti che siete qua perché siete state simpaticissime, è stato bellissimo. Grazie. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Beh, salutiamo tutti quelli che, non sono venuti essere qui. Perché dovevate essere di più. Dobbiamo essere di più, però dai. Invece eravate in 8 o 9? 6. Sì. Oggi 6, però dobbiamo essere 8. Scusate, ma non avevo messo gli occhiali. Però sì, dai, salutiamo le persone che non sono potute venire. Salutiamo Giorgia, che è in Thailandia. Ah. Esatto, è andata a farsi una vacanzina. Ci ha abbandonato. In Cina nessuno? In Cina no. In Cina meglio di no. Sei già stato tu? Va bene così. Infatti abbiamo una mascherina qua dentro. Sì. Ma perché è carnevale, perché noi festeggiamo esatto. Anche carnevale qua, sì. Vi aspettiamo in massa. Sì, anche carnevale. Come verremo? Sì, un'idea per carnevale? Potremmo vestire da... Bamboline psicopatiche. Bello, mi piace. Ma non è Halloween, bamboline psicopatiche potrebbe essere Halloween. Dai, vabbè. Però questa bambolina psicopatica. Va bene anche carnevale. Sì, Sì, dai. Ti ci vedo. Grazie. Ti ci vedo con questi occhi qua. Sì, anche la coscienza. Un po' da psicopatica. Okay. Sì. Ma cosa fai nella vita, oltre a essere un po' psicopatica? Studi. Scienze dell'alimentazione. Spero di fare una buona dieta invece che creare cose un po' psicopatiche. psicopatiche. Una dieta psicopatica, come la potremmo immaginare? Alla mattina ti alzi e... psicopatica. Uova strapazzate, perché... Non fare dieta, esatto. Non fare dieta, okay. Non fare dieta. Quindi una dietologa rinnegata, insomma. No, spero di essere brava. Speriamo. Voi cosa dite? Sarà brava? Ma sì, sarà brava, certo. La Vittoria non parla. Noi ci crediamo. Se vuoi qualcosa di difficile per esercitarti, ci sono io. Se vuoi... Parla, qualsiasi persona che voglia... cosa mi consiglieresti? Cambia, va benissimo. Sai, mi offro come... Vabbè, intanto iniziamo. Ci sono le tue amiche che sono sotto il tavolo della regia, che si stanno scompisciando, allora, si può dire, dalle risate. Ci piacerebbe ridere anche noi. Loro sicuramente non mi serviranno come cavie. No? Però dai, consiglio. Perché hanno già dato? No, non sono abbastanza. No, ancora no, perché sono dolci. E c'è stato uno scioppone, ci piacerebbe saperlo dalla coscienza. Vai. No, la coscienza si rifiuta. Si rifiuta di provare, aspettiamo ancora un po' di anni. Perché no, ma voleva... Siamo molto curiosi qua in radio. Vai. Perché avete riso, vi è arrivato questo scioppone qua? Vittoria, che è silenziosa, ma... Dici qualcosa, Vittoria, cosa vuoi dirci? Ah, è la Vittoria che travia. È la Vittoria. È una Vittoria traviata questa sera. Non travia. Credono in me, va. No, non credono in te. No, non è vero. Va bene. Io credo in lei. A questo punto... immagineremo la dieta e salutiamo gli amici a casa. Ok, le patatine? Fritte. Le patatine. Alla mano lunga. Mi piacciono le patatine. Qui si scoprono gli altarini. Sì, ho capito. Ho capito da che piede va zoppo. Ah? Ho capito bene. Ah? Quindi va zoppo a zoppicare? No. Sì, no? Va bene, no. È stato bellissimo. Purtroppo il nostro angolino sta... In pratica non abbiamo concluso nulla. Concludiamo almeno salutando gli amici che non sono venuti, che non avete completato il giro. Quindi salutiamo tutti. Allora Giorgia, che è in Thailandia. Martina che è ammalata. Salutiamo Gian Giacomo che deve studiare. E? Poi salutiamo Manuela. E infine Manuela che non poteva venire. Ma sì, salutiamo tutti i nostri amici. Salutiamo tutti, un bacione. Da? Ci stiamo divertendo. Un bacione da? Dal convento, da Stefania e da Vittoria. È stato bellissimo. Ciao anche da Mr. Dave. Ciao.